I wish that everything was clear without any trick. I would like to communicate more in my world. I would like to listen to you more. When your mouth is closed and your eyes do shout, or standing glass for living more. I don't wanna hear sides crying. I don't wanna hug and plastic people in my world. I wish that everyone had a dream hit and hit the wrong full of dust in difference. In my world, in my world. Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco degli Oracles dal titolo Have a Nice Trip. Come si chiamava questa canzone? I Wanna Live in a Dream Machine. Quali saranno ora le prossime mosse della band per il futuro? Ma per il futuro ci aspetta una grande promozione per il disco, quindi ci ritroverete nelle radio, nelle web scene, nei giornali eccetera, e poi stiamo organizzando, il nostro entourage sta organizzando quello che sarà la tournée per, chiaramente per la promozione del disco. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far ascoltare? Wisdom and Rock and Roll. Yeah. Il tempo come sempre scorre inesorabile e noi siamo in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email gianluca76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il Media Player. Un grazie di Oracles per la partecipazione, buona fortuna per il vostro album e a questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco e un calendario di live già definiti. Beh, per quanto riguarda il nostro sito internet oraclesband.com troverete tutte le nostre informazioni in merito ai live già programmati, tra questi ci sarà Parigi 20, 21, 22 di maggio. Per quanto riguarda l'acquisto del disco troverete le info direttamente dal sito, altrimenti potrete trovarlo sicuramente su iTunes, Amazon e quant'altro, eccetera eccetera. E per quanto riguarda Facebook, Mediaset, MySpace, ci troverete ovunque e in qualsiasi modo. Su MySpace siamo come Oracles Net. Oracles Net. Non Oracles Band. Comunque ragazzi, visitate il sito, non sapete cosa vi perdete. È bello. Brano per chiudere questa serata, Checkpoint Charlie. Gianluca e Yorick vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo ospiti Trevigiano e Mazzold che ci presenteranno il loro primo disco intitolato Reborn. Ciao. Ciao a tutti.